Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Ciao Simona, come stai? Bene, grazie. Ciao a tutti e tutte. Allora, i titoli. Partiamo dalla piramide olografica cognitiva in mostra a futuro remoto. Che dobbiamo spiegarvi. E poi coprogettazione. Che cosa significa coprogettare, soprattutto quando l'obiettivo è costruire strumenti per la disabilità? E poi chiudiamo con una domanda. L'Europa ha davvero bisogno di nuove foreste? Ecco, via! Federico, allora, a Napoli dal 25 al 28 maggio torna Futuro Remoto in Piazza del Plebiscito. Questa è la 31esima edizione, è dedicata al tema connessioni. Quindi con tante cose diverse, tanti stand, tante ricerche, aziende, insomma c'è... Un menù ricco. Ricchissimo. Dovete andare in rete, digitate Futuro Remoto 2017... e arrivate al programma. Noi abbiamo scelto un tema forse tra i più curiosi e ce ne parla qui Luigi Gallo. Buonasera Gallo. Buonasera a tutti. Buonasera Luigi Gallo, ricercatore dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e protagonista, tra i protagonisti appunto della nuova edizione di Futuro Remoto, con una postazione molto particolare. Che cos'è che fa? È un possibile dialogo uomo-macchina, divulgativo, didattico? Comincia a descrivercelo. In realtà qui l'idea di fondo, come lei giustamente diceva, era quella di individuare dei nuovi strumenti che consentissero una divulgazione scientifica che non fosse standard per tutti, ma che consentisse a ogni utilizzatore del sistema di trovare un proprio percorso di approfondimento. In pratica, poiché le tematiche che andiamo a trattare, in questo caso particolare noi ci occuperemo di scienze della vita, quindi parleremo di cellule, di legami fra cellule, di funzioni, di anche concetti complessi, su questo cosa abbiamo pensato? Che ci fosse bisogno di realizzare qualcosa che da una parte desse una grande possibilità di interazione all'utente, quindi una visualizzazione tridimensionale di strutture complesse che potessero essere manipolate con comandi gestuali dagli utilizzatori in olografia, quindi anche con un certo appeal dal punto di vista dell'utente, ma poi integrare a questa componente di visualizzazione e di interazione un qualcosa che fosse in grado di capire il linguaggio naturale, cioè le domande dell'utente, e rispondere contestualizzando, cioè avviare un dialogo. Senta, però ci dica questo, c'è un grande schermo nel quale possono apparire delle strutture, una bella cellulona che si può far girare, e però ecco, non ci sono tasti, mouse, joystick, ci si muove con le mani? Esatto, è proprio così. In realtà quello che si vede è come se fosse una specie di teatro delle marionette, perché non si vede lo schermo, si vede solamente un grande vetro, e su questo vetro fluttuano queste immagini tridimensionali. Le immagini tridimensionali poi possono essere ruotate, ingrandite, si possono chiedere dettagli utilizzando semplicemente dei gesti delle mani. Questo dal punto di vista dell'interazione manuale. Dopodiché si può parlare con l'oggetto, quindi si può chiedere come funzioni, cosa servi, qual è la tua differenza con quest'altro oggetto, e il sistema capisce le domande e risponde in linguaggio naturale, proprio avviando un dialogo con chi lo sta utilizzando. Infatti Gallo, leggendo, curiosando nel programma di questa nuova edizione di Futuro Remoto, ci ha incuriosito proprio il nome della vostra postazione, Piramide Olografica Cognitiva. Si tratta praticamente di un tutor cognitivo? Sì, in realtà tecnicamente si potrebbe chiamare come un agente di intelligenza artificiale di tipo conversazionale, cioè fondamentalmente un po' un Siri, un Google Now, un agente di questo tipo, con una differenza fondamentale. Per noi è imprescindibile che la risposta del sistema sia scientificamente corretta, quindi il grande lavoro di interpretazione della domanda viene fatto a monte. Il sistema deve essere sicuro di aver capito la domanda, quindi avvia un dialogo anche per essere certo di aver capito la domanda dell'utente, dopodiché deve dare una risposta che è sicuramente corretta. Ma a proposito di dialogo, la risposta in qualche modo è tarata anche rispetto all'interlocutore, cioè il sistema riesce a distinguere per esempio un bambino da un adulto? Questo sarebbe interessantissimo, ma è una, diciamo, una strada sulla quale non ci siamo ancora spinti troppo in là. anche se sarebbe fattibile. Al momento lui capisce dalla tipologia di domande, la tipologia della domanda dà una risposta che fondamentalmente la stessa sia per un bambino che per un adulto. Se però un esperto dovesse fare una domanda molto tecnica, la risposta sarebbe tecnica. Sì. Quindi in questo caso, piuttosto che profilare chi utilizza il sistema, ci si adatta e si profila la domanda. Ma senta, quello che le ha detto è sicuramente un ambito di ricerca interessante. Sarà un passo successivo. Senta, io vorrei che fosse molto chiaro una differenza che magari può sfuggire adesso a chi ci ascolta non essendo lì. Qui c'è un salto forte, perché di sistemi con i quali si parla, no, e si riceve una risposta di installazioni di questo genere ce n'è, ma qui la sfida è che comunque io parli al sistema. Questo interagisce con un linguaggio quindi piano, diretto, molto diverso da persona a persona, e poi c'è questa mission, cioè lui deve dire la cosa giusta. E questa è la sfida, questa è una differenza grossa. Sì, la sfida è questa, e la sfida è rendere il tutto multimodale. Anche quando il sistema risponde, non risponde solo parlando, risponde anche, per esempio, ruotando il modello per evidenziare la parte che dobbiamo focalizzare e visualizzando delle immagini che possono chiarire meglio il concetto. Quindi utilizza più canali di comunicazione simultaneamente, così come l'utente può utilizzare più canali di comunicazione per interrogare il sistema. Quindi si cerca di realizzare un qualcosa che sia quanto più possibile chiaro, sfruttando tutti i canali possibili. Senta Luigi Gallo, in questo caso lo vedremo in azione a futuro remoto, quindi a Napoli, però ecco, in quali contesti poi voi vi immaginate effettivamente operativo un sistema del genere? Beh, la prima sperimentazione che abbiamo fatto di questo sistema, anche se la componente di intelligenza artificiale era ancora agli inizi della parte di sviluppo, è stato già installato per 4 mesi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, quindi una prima possibilità di installazione è quella museale, in cui la rappresentazione olografica di un'opera che può essere non disponibile perché oggetto di restauro oppure perché non si è riusciti a completare interamente la mostra di un autore, può essere riproposta in olografia, e invece di utilizzare i tipici pannelli cartacei il visitatore può direttamente interrogare l'opera e quindi parlare con l'opera e sapere di più dell'opera. Certo. Questa è una prima sperimentazione già fatta. E poi la divulgazione scientifica, soprattutto in ambito medico, può essere un'altra applicazione molto importante. Immagini dai medici di medicina generale fino a un pronto soccorso, avere tutta una serie di informazioni certe su una patologia e su un percorso di cura è sicuramente un obiettivo. E allora, Luigi Gallo, grazie. Appuntamento a futuro remoto, buon lavoro. Grazie a voi. Ci sono quelli del traffico che insistono per dirci qualcosa. Sentiamo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, oggi ormai sappiamo quanto siano importanti le aree verdi sia per il nostro benessere sia per il benessere del pianeta. Ma l'Europa ha davvero bisogno di nuove foreste? Questa domanda provocatoria la facciamo a Sabina Burrascano, naturalista della Sapienza, dove insegna geobotanica e dinamica della vegetazione. Buonasera. Buonasera. Questo interrogativo, che parte qui dal nostro studio, non è un'invenzione mia e di Simona, è qualcosa è un titolo con il quale è girata una notizia su uno studio internazionale che lei ha coordinato, la Sapienza, l'Università Sapienza aveva il coordinamento di questo studio, e insomma l'interrogativo è quello, che è un po' controintuitivo, perché qui siamo tutti a pensare che più boschi abbiamo meglio è, proprio i boschi che sono selvaggi, c'è dentro un sacco di foglie, insomma. Cioè noi pensiamo che il problema sia la deforestazione, non esatto, il contrario. Invece dal vostro studio che cosa è venuto fuori? Allora, sicuramente bisogna fare dei distinguo, prima di tutto regionali, nel senso la deforestazione è un problema fortissimo nelle regioni tropicali del nostro pianeta. Per quanto riguarda invece le regioni temperate, noi con l'abbandono dell'agricoltura, soprattutto nelle aree collinari e montane, assistiamo a un'avanzata del bosco così massiccia che sta mettendo in difficoltà gli ecosistemi più aperti, le praterie e i pascoli seminaturali che da sempre caratterizzano il paesaggio europeo. Ma che problema c'è? Vediamo di separare. Che problema c'è dal punto di vista della è strettamente ecologico, va bene, abbiamo più boschi, più verde. Non sarebbe comunque meglio? Allora, da un punto di vista dello stoccaggio del carbonio, che ha sicuramente un'importante funzione anche di assorbimento di gas serra e quindi di mitigazione dei cambiamenti climatici, l'avanzata del bosco è di solito vista come un fattore positivo. E per quanto riguarda invece la biodiversità, è chiaro a tutti che le praterie della fascia temperata sono molto più ricche di specie delle nostre foreste. Allora, soprattutto sono minacciate in questo momento. Ecco, allora, se voi avete in qualche modo evidenziato queste contraddizioni delle politiche europee di rimboschimento, ecco, che cosa proponete? Nuove strategie? In che direzione bisogna andare per tutelare la biodiversità a rischio e tutelare spazi verdi, le aree verdi anche nel nostro continente? Premesso che è impossibile, diciamo, fermare l'avanzata naturale del bosco, quello che si deve fare sono sicuramente incentivare le attività di pascolo e di sfalcio, soprattutto nelle aree montane e collinari, da una parte, e poi evitare di piantare alberi, nel senso che spesso anche questi rimboschimenti, anche dal punto di vista del carbonio, sono molto meno efficaci dell'avanzata naturale del bosco nel mitigare i cambiamenti climatici. Cioè, l'albero piantato non è così efficiente come quello che viene prodotto naturalmente dal bosco allargandosi. Sì, perché le praterie stoccano nel suolo moltissimo carbonio e laddove si va a intervenire con macchinari e piantare, sì, la biomassa epigea, quindi quella che vediamo, la vegetazione aumenta, ma si può avere una forte perdita di carbonio del suolo. Mentre invece quando l'avanzata del bosco è naturale, prosegue sia lo stoccaggio di carbonio nel bosco che quello nella biomassa. Quando lei prima diceva che si perde in biodiversità, intende dire per esempio che certo molti insetti stanno dove ci sono i grandi prati e poi però ci sono anche, che ne so, le lepri, no? Il coniglio selvatico, sì. Questi non possono stare nel bosco? Sì, ci sono sicuramente tutto un corredo di specie sia vegetali che animali legate a questi ambienti aperti. Per quanto riguarda le piante, è stato dimostrato che la biodiversità delle praterie delle zone temperate ha una scala spaziale più minuta e confrontabile a quella delle foreste tropicali, cioè come numero di specie per superficie. Questo per le piante. Poi ovviamente ci sono moltissime specie di insetti, alcune delle quali proprio indicate anche dalla Commissione europea come meritevoli di conservazione. Quindi, se capiamo bene, quello che emerge da questa chiacchierata è l'importanza di tutelare sì le foreste esistenti, ma non di eliminare le praterie per piantare nuovi alberi. Esatto, diciamo che le praterie culturalmente vengono spesso percepite come dei sistemi marginali dall'uomo della strada, quasi come niente, cioè qui non c'è niente, e invece hanno un ruolo sia ecologico, appunto, di stoccaggio del carbonio che di conservazione della biodiversità, che ha la stessa dignità di quello che hanno le foreste. Certo, lavora in modo diverso. Questa diminuzione delle aree agricole, probabilmente con tecnologie di coltivazione molto più efficaci, è inarrestabile, insomma, andrà avanti per un bel po'. Eh sì, questo è inarrestabile, assolutamente, sono dinamiche socio-economiche che per quanto si diano sussidi, eccetera, è difficile fermare. Tuttavia ci sono anche delle proposte, per esempio per quanto riguarda l'uso di biomasse per la produzione di energia, di non prenderle appunto da foreste piantate per la produzione di biomassa, ma di andare a falciare e mantenere queste praterie per la produzione di biomassa. Certo. Questo potrebbe essere uno scenario auspicabile se si avranno le tecnologie. Va bene, allora abbiamo capito che cosa vuol dire non coltivare foreste in Europa. Insomma, ha chiarito il perché la domanda provocatoria iniziale, cioè l'Europa ha davvero bisogno di foreste. Sabina Burrascano, naturalista della Sapienza, grazie per essere stata con noi, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, buon lavoro. 29 maggio qui a Milano, Human Factory Day alla Cascina Trivulzio, siamo nell'area Expo Milano, c'è una manifestazione, un meeting organizzato appunto dalla Fondazione Trivulzio che è dedicato al rapporto tra ricerca e società civile e in particolare all'internazionalizzazione di questi temi che è fondamentale per favorire l'innovazione sociale. Verranno discusse tante cose che hanno a che vedere appunto con tutte quelle ricerche nelle quali c'è una componente sociale forte, i temi dell'innovazione responsabile, e si parlerà anche del progetto CRIU. Il progetto CRIU è un progetto finanziato da Fondazione Calipro che lavora sulla coprogettazione, ovvero mettere insieme quelli che sono tutti gli attori di una certa idea innovativa, e in questo caso specifico si tratta di progetti che devono servire a persone che sono appunto, come li definiamo, diversamente abili, quindi con dei problemi di disabilità. Quindi l'innovazione al servizio dell'inclusione sociale. Ne parliamo con Marco Rasconi. Buonasera. Buonasera. Presidente dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Milano, che è uno degli attori protagonisti del progetto attivo nell'ambito del progetto CRIU. Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo partecipato molto volentieri a questa idea di costruire qualcosa di innovativo attraverso un processo innovativo, ovvero quello di mettere allo stesso tavolo chi pensa a una soluzione ma chi è portatrice, è portatore anche del bisogno. Ecco, da qui vogliamo proprio partire. Attivo vuole mettere a punto un dispositivo per supportare l'attività in acqua di persone che hanno disabilità fisiche, disabilità motorie. Alla base di tutto, come sottolineava già prima Federico, c'è questo quest'idea della coprogettazione. Che cosa significa? Quindi sedersi attorno a un tavolo, ognuno portatore di background, consapevolezze, competenze, al fine di sviluppare la migliore soluzione innovativa possibile. Sì, quando si progetta una soluzione per delle persone che hanno delle criticità, appunto la problematica è sempre la stessa, ovvero il rimpallo continuo di informazioni e soluzioni che fanno avanti e indietro. Questo fa perdere tempo, fa perdere risorse e soprattutto non mette di fronte le persone che progettano alle persone che poi utilizzeranno il risultato di questa progettazione. Quindi manca quella parte empatica. Certo, non le mette a confronto da subito, perché questa è una differenza importante, no? Nel senso che poi ci sono altre esperienze nelle quali viene progettato qualcosa e poi si va a testare dagli interessati, cosa ne pensate? E c'è un'enorme differenza. È una differenza enorme, anche perché proprio a livello anche di gratificazione per chi progetta. Già, certo. Tutto questo ha un senso differente. Questo permette ovviamente di risparmiare tempo, risorse e di dare delle risposte più dirette agli interessati e alle persone che hanno bisogno di risolvere un certo tipo di problema, in questo caso quello dell'utilizzo in acqua, del poter stare in acqua in autonomia, nella maggiore autonomia possibile. Nella maggiore autonomia possibile, naturalmente per una persona che ha problemi nella gestione del proprio corpo, il galleggiamento, l'acqua è una condizione di grande soddisfazione. Le chiedo una cosa che non è banale, credo, per tutti noi che non siamo all'interno di queste cose, da capire. Il fatto che il portatore di una disabilità riesca a entrare in un contatto amichevole, empatico con chi progetta, vuol dire anche che riesce a tirar fuori delle cose che normalmente non fa, perché per quanto insomma diciamo che certo è cambiato molto l'atteggiamento verso la disabilità, però c'è sempre un sentimento di difficoltà per chi ce l'ha nel tirare fuori le proprie esigenze. Certo, beh, è sempre una complessità aprirsi verso l'esterno mostrando delle difficoltà e delle criticità. Però in un ambiente dove c'è chi ascolta, chi cerca di trovare una soluzione e che soprattutto ascolta quelle che sono le criticità nella soluzione che tu stai andando a portare, ti permette effettivamente di fare un percorso di apertura e di liberazione di quelle che sono le problematiche, che consentono poi una maggiore comprensione da parte dei tecnici, non solo, ma questo vale veramente in generale e credo che sia effettivamente l'aspetto più innovativo. Certo. Le persone con disabilità cominciano poi a fidarsi delle persone che hanno intorno e cominciano a essere portatori proprio delle loro criticità. Questo vuol dire un altro passo verso un'autonomia possibile. Certo, e io lo dico, insomma, ho seguito un po' queste vostre cose, lo dico agli ascoltatori e ascoltatrici, le criticità profonde, attenzione, sono quelle che stanno un po' sotto, mentre invece in una sperimentazione più superficiale va bene, il portatore d'handicap può dire delle cose. Chiudo dicendo che sul blog di Mebius potete trovare vari materiali, compresa certo questa intervista, che rimandano all'appuntamento del 29, che è lunedì. Marco Rasconi, presidente quindi dell'Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare di Milano, grazie per la sua testimonianza, grazie per questo impegno nel progetto CRU. Buona serata. Buona serata a voi e grazie mille. Stai sempre bene come all'inizio? Assolutamente sì, anzi meglio. Allora, buona settimana a tutti. E a tutte.